Italia in controluce. Il pomeriggio di Radio 24 per quest'oggi 3 luglio, Italia in controluce, l'edizione delle 13.30, condotta e coordinata da Daniele Biacchesi. Quanti soldi vengono racimolati dai concerti in beneficenza? I quattrini raccolti dai musicisti arrivano poi a destinazione e per realizzare soprattutto quali progetti? Il reportage di Valentina Furlanetto ci riserva molte sorprese. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore abbastanza un minuto, per il dolore abbastanza un minuto. E verrà il tempo di dire parole, quando una vita darà. E verrà il tempo di fare l'amore, quando l'inverno piano se ne andrà. Quando l'inverno piano se ne andrà. Grazie ad artisti come Francesco Guccini e Caterina Caselli, a Bologna sono stati raccolti 2.800.000 euro per i terremotati dell'Emilia. C'è chi ha detto no, come Vasco Rossi, che la beneficenza la fa evidentemente lontano dai riflettori, ma c'è anche chi si è speso con sincerità ed emozione sotto i riflettori per qualcosa in cui evidentemente crede. Ma una volta spente le luci e i microfoni, che fine fanno i soldi? Chi era su quel palco, chi ha pagato un biglietto a Bologna o ha mandato un SMS da casa, si augura che questi soldi arrivino presto a destinazione, ad aiutare chi sotto le macerie del sisma ha perso la casa e il lavoro. Ma sta di fatto che in passato spesso non è andata proprio così. Era l'estate del 1971 quando il popolo rock scoprì per la prima volta la beneficenza. Fu George Harrison a fargliela scoprire e da allora i concerti benefici hanno avuto numerosi cloni. In quel caso, l'evento a favore del Bangladesh si tenne al Madison Square Garden di New York e vide la partecipazione di ospiti come Bob Dylan, Eric Clapton e Ringo Starr. La copertina del triplo vinile raffigurava un bambino seduto di fronte a una ciotola enorme, dentro la quale c'era ben poco riso, iconogramma del dramma. Quella manifestazione racchiudeva già in sé pregi e difetti di quelli che sarebbero stati poi i concerti benefici. A dispetto del successo innegabile, Harrison ne uscì ferito. Il ricavato, $243.000, non andò infatti ad aiutare quelli per i quali era stato organizzato l'evento, ma venne bloccato per 10 anni per motivazioni burocratiche dal fisco americano. Comunque, da allora il binomio musica-solidarietà è continuato, lo sa bene Bob Geldof, inventore del Live Aid, e poi Pavarotti con i suoi Pavarotti and Friends, che hanno avuto risultati alterni. Ma arrivando ai tempi nostri, 3 anni fa, un mese dopo il terremoto all'Aquila, un nutrito gruppo di artisti si riunì e produsse un disco per raccogliere fondi con i quali ricostruire il conservatorio della città. Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. L'iniziativa di Pagani e Giovannotti raccolse oltre 1.000.000 euro. Le immagini di quella registrazione emozionano ancora oggi. Ma il titolo della canzone non poteva essere più onesto. E comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Estrago un foglio della risma nascosto. Scrive e non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi. La vita si fa grande così. E comincia domani. A 3 anni dalla registrazione del disco e dal sisma, i fondi sono bloccati in un domani che non si vede, bloccati in un conto del Ministero dei Beni Culturali, con forte disappunto di Giovannotti, che più volte ha sollecitato il governo a sbloccarli e ne ha scritto anche recentemente sul suo sito internet. Sempre 3 anni fa e sempre per l'Abruzzo si esibirono a Milano in concerto un gruppo di cantanti capitanate da Laura Pausini. Il concerto Amiche per l'Abruzzo raccolse 1.183.000 euro che Laura Pausini andò personalmente a consegnare al sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. L'80% di questo ricavato appunto è già stato versato nelle casse del comune dell'Aquila e il 20% l'abbiamo donato agli amici di Camarda insieme al contributo degli amici di Aiutiamoli a Vivere. Loro, anche loro hanno cominciato già un progetto importante che ha bisogno anche lì di essere... Sì, di avere una spinta... Un'autorizzazione. Sindaco, lei oggi io le devo rompere le scatole. Lei mi deve dare un sacco di autorizzazioni. La meno con questa se non lo fa, eh. No, sto scherzando. Domani è già qui, domani è già qui. Anni sono passati e anche quei soldi in parte sono ancora bloccati, come spiega il sindaco. Il problema da noi per rifare le cose è che le progettazioni sono complicatissime, ci sono altri palazzi importanti, ad esempio i soldi della Pausini stanno sulla scuola, adesso parte, ma si tratta di un edificio del 400, quindi il progetto dell'università, insomma sono cose complesse di costruire l'Aquila. 3 anni dopo però molti di questi progetti non sono proprio ancora partiti. Noi abbiamo avuto un rallentamento burocratico, la struttura commissariale e così via. E adesso partiranno i lavori, abbiamo trovato gli altri soldi e partono i lavori. E io spero nel giro di 3 anni di ristrutturare, 3 anni e mezzo, ma si tratta di un grandissimo edificio del 400, ripeto. Delle promesse invece di aiuto da parte dei governi esteri, cosa ne è stato? Alcune si stanno verificando, altre sono sempre relative a questi palazzi molto complicati, stanno partendo lentamente, no? La Russia, il palazzo Albinghelli, che è un palazzo rinascimentale, abbiamo avuto tempi più lunghi. Alcuni paesi sono spariti, come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che non hanno fatto nulla. Obama, ce lo ricordiamo tutti, insieme a Berlusconi, fra le macerie dell'Aquila. Sì, però gli Stati Uniti non hanno fatto niente. Ecco, alla conta poi non sono arrivati questi dollari. No, no, no. Domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui. Spente le luci e i microfoni, quindi, non sempre all'entusiasmo sincero dei cantanti seguono risultati. Ma questo anni fa l'aveva già capito proprio un cantante, Giorgio Gaber, nel suo monologo La Zalea. Io credo che non ci sia stato un altro periodo nella storia in cui gli uomini siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. Però la domenica una zalea. Si risolve tutto con le azalee. E mi bussano alla porta. Mi fermano per la strada, mi corrono dietro col motorino, con la bicicletta. Io stremato, che faccio? Compro una zalea per salvare bambini, animali, piante, ricerche varie, bacini idrici, le suore del Nicaragua, le foreste dell'Amazzonia. Devo fare tutto io. La zalea, oltre a essere un arbusto ornamentale della famiglia delle ericacee, è diventata simbolo di purificazione. E siccome più uno è sporco dentro, più ha bisogno di apparire buono, i più carogna hanno azalee dappertutto. Nell'ingresso, in sala da pranzo, in camera da letto, vado al cesso e trac, una zalea. Che rapina. Secondo me a San Francesco non piacevano le altalene, mi piacevano i lupi. Certo che anche avere la casa piena di lupi. E Galli e madre Teresa di Calcutta ne hanno salvate di persone, eh? Oddio, se in India ci fosse stato un bravo statista anche un po' meno buono, forse ne avrebbe salvate di più. Ma che c'entra? Non c'è niente da fare, la bontà vera commuove, rassicura. Quella finta mi fa vomitare. E se ci fosse un Dio, io credo che la condannerebbe. Ma basta con queste finzioni, queste ipocrisie, queste esibizioni fatte per abbellire l'anima e anche l'immagine. Ma dentro, dentro, cosa siamo, eh? Ve lo dico io cosa siamo. Siamo delle caramelle di merda ricoperte di cioccolato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era il reportage di Valentina Furlanetto sui concerti in beneficenza ed era l'edizione di oggi 3 luglio di Italia in Controluce. Questa, come tutte le puntate di Italia in Controluce, le potete scaricare in podcast, riascoltare su radio24.it. Siamo su Facebook, abbiamo la pagina del gruppo, Twitter, la nostra mail controluce@radio24.it. Domani torniamo alle 13.30 con un reportage sul mercato della musica e della cultura in Italia firmato da Martina Argentona.